Antonello Grimaldi con Caos Calmo, Daniele Lucchetti con Mio fratello e figlio unico, Silvio Soldini con Giorni e nuvole, Paolo Virzì con Tutta la vita davanti e Gianni Zanasi con Non pensarci. Ecco i cinque registi dei cinque migliori film della stagione scelti dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Chi vincerà? Paolo Virzì non ha dubbi. A questo punto lo voglio vincere io, ma che discorsi, eh? Cioè, ma secondo voi, onestamente, chi dovrebbe vincerlo? La rivelazione dei David, Andrea Molaioli, è invece nominato tra i registi esordienti. Abbiamo fatto un po' l'amplen del gradimento, sembrerebbe. Quasi da preoccuparsi, insomma. Già annunciato lo speciale nastro dell'anno 2008 e Carlo Verdone per il suo Grande, grosso e Verdone. È un film che mi ha dato tante soddisfazioni, veramente, non solo di pubblico, ma vedi, anche il fatto che i giornalisti l'abbiano molto apprezzato mi rende particolarmente felice. Anche gli ascoltatori di Radio 24 possono votare per il loro film preferito per un premio speciale su radio24.it. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore.